Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giuliano Pisapia, 66 anni, avvocato penalista, giornalista, deputato dal 96 al 2006, sindaco di Milano. Mamma milanese, papà casertano, Gian Domenico Pisapia, uno dei più celebri penalisti italiani. Da lui ha ereditato la passione e il talento per il diritto, anche se ci ha messo un po' per ammetterlo. Frequenta medicina di giorno e di notte fa il barelliere per la Croce Rossa. Poi fa l'operaio, l'educatore nel carcere minorile Beccaria, si trasferisce a Torino, spinto dai venti del movimento studentesco di cui fa parte, si iscrive a scienze politiche. Poi si arrende alla passione di famiglia, il diritto, e trova la sua strada propria nello studio del padre del quale era fuggito. È stato il primo candidato sindaco a puntare sul web come aggregatore di persone e contenuti. Il suo mantra è: la politica non deve essere un mestiere a vita. Ecco, allora, sindaco Pisapia, meglio grande avvocato o sindaco? Tutte e due le esperienze sono fondamentali. Perché? Perché da grande avvocato, almeno da avvocato, impari a difendere i diritti di tutti. Come sindaco devi diventare concreto per far sì che tutti abbiano i diritti. Suo padre, maestro di diritto e del foro, l'abbiamo detto, avrebbe approvato la sua scelta? No, non avrebbe approvato. E qual è l'insegnamento più importante che le ha lasciato? Di non guardare in faccia a nessuno quando si parla di diritti, di non distinguere tra ricchi e poveri, tra potenti e non potenti. E questo le serve per far bene il sindaco? Sì, mi serve perché mi insegna il garantismo, che non riguarda solo la procedura penale ma riguarda anche la vita quotidiana di ogni giorno. Allora, sindaco Pisapia, cominciamo dalla fine. Tutti le chiedono se si ricandiderà nel 2016 come sindaco. Lo faccio anch'io, si ricandiderà? Ma manca un anno e mezzo, io direi che aspettiamo. Perché non vuole scegliere la riserva adesso? Perché adesso mi dà una notizia. Ho altro a cui pensare. Non mi vuole dare questa notizia, eh? No. No. Certo, con il PD di Renzi al 40% non è facile raggiungere il risultato che ha raggiunto con la giunta Arancione, è così? È sicuramente più difficile, ma è possibile. Dopo il suo intervento applauditissimo alla conferenza di SEL, i suoi rapporti col PD mi sembrano abbastanza compromessi, mi sbaglio? Ma io distingo, i rapporti col PD locale sono ottimi, col PD nazionale un po' più problematici. Sì? Molto? Beh, ci danno poca retta, eppure Milano è l'anticamera del futuro. Senta, sindaco Pisapia, il PD la vuole, sindaco, ma se lei lasciasse, non ne faranno una tragedia, perché intanto un candidato interno, lo dicono, lo trovano. Le dispiace? Qualora non mi candidassi, mi batterò come mi sono battuto quando mi sono candidato, perché ci siano le primarie. E alle primarie non sempre il PD vince. Ma le secca sentir dire ogni momento che intanto il PD è un partito del 40%? No, mi fa piacere. L'importante è che la sinistra riesca a crescere. Senta, ma Salvini come avversario la preoccuperebbe o la fa ridere, come ha detto? No, mi fa ridere, perché Salvini non conosce la città così bene, che non, è una città, Milano, che non può accettare alcuni messaggi discriminatori che ha Salvini. Quindi secondo lei Salvini non ha nessuna chance? No, a Milano no. Senta, sindaco Pisapia, c'è chi dice che lei deciderà in realtà, da buon avvocato, a seconda di come va l'Expo. È una cattiveria? No, posso garantire che deciderò prima. Anzi, ho già deciso, ma lo dirò a Milano e ai cittadini milanesi prima di Expo. Vabbè, me lo dirà a me alla radio, facciamo sto patto. Ok, senta, ma il successo o meno dell'Expo influenzerà, non le influenzerà quindi le scelte sue? No, no, perché a quel punto la scelta sarà già fatta prima. Ma ci crede 20 milioni di visitatori previsti? Sì, ci credo, perché sono stati venduti già 7 milioni e mezzo di biglietti. E quindi crede che arriveremo a 20? Sì, sono tranquillo da quel punto di vista. Sì. Ho altre preoccupazioni. Adesso ne parliamo. Il primo maggio, comunque, tra un attimo. Intanto, diciamo, la cosa che rischia di saltare il primo maggio è la Turandot. Francesco Lattuada, che è il delegato della CGIL, del teatro, ha detto: possono venire anche Mattarella e Fidel Castro, non saliremo sul palco. Una follia. Sì, credo che sia sbagliato, perché il primo maggio è la festa dei lavoratori, ma Expo, il successo di Expo porterà nuovi posti di lavoro, tanti, e credo che i sindacati devono preoccuparsi anche, se non soprattutto, di questo. Quindi è un caso in cui il corporativismo degenera e diventa un po' ridicolo. Non è corporativismo, è essere ancorati al passato, senza guardare al futuro. Corporativismo e soldi. No, perché non è un problema di soldi, di questo sono convinto. È un problema un po' ideologico. La festa dei lavoratori è una festa per tutti. Ma vabbè, qua... però lei ha spiegato che più lavoratori della festa per l'Expo, difficile immaginarla. Ah, di questi tempi, ecco. È sicuro. Ecco, sindaco Pisapia, mentre loro non vogliono lavorare, comunque la CGIL ha fatto un raccordo abbastanza a ribasso per i giovani che lavorano o lavorerebbero all'Expo. Non è una bella contraddizione, eh? Ma non credo, perché ormai nei curriculum che vengono prese in considerazione l'esperienza di aver lavorato nell'Expo serve molto più di una laurea. Senta, ha ragione Renzi che non accetta più i ricatti dei sindacati? Non ho capito, scusi. Ha ragione Renzi che non accetta più i ricatti dei sindacati? I ricatti non li accetta e fa bene, come non li accetterei io. Il confronto invece è giusto, l'importante è che non siano richieste corporative quando le fanno. In questo caso, diciamolo, un po' corporativa. Ma no, è sbagliata, perché ci sono due scelte giuste: quella che il primo maggio è la festa del lavoratore, quindi chi può non dovrebbe essere. Lei che parla sempre chiaro su questa potrebbe dirla chiara. Ma l'ho già detto, è stata una scelta sbagliata che non condivido, ma credo che sarà superata. Ho elementi seri per dire che sarà superata. A proposito di Renzi, che legge Mattarella con i voti di sé, le piace un po' di più adesso? Bisogna vedere se è stata una sua scelta o invece è stato costretto. Addirittura pensa? No, costretto no, però sicuramente mi piace di più. Ma preferisce Renzi o Tsipras? Mi piacerebbe la simpatia o la forza di Renzi, ma i valori di Tsipras. Ah, i valori di Tsipras. Perché? Perché Renzi ogni tanto piglia delle sbandate, ma il leader greco invece spesso non ha il senso della realtà e della situazione difficile in cui si trova. Ah, siamo messi bene, uno sbanda, l'altro non capisce la realtà. Insieme sarebbe l'ideale, quello che sto cercando di fare in Italia, diciamo, è quello che sto nel mio piccolo sto cercando di fare in Italia. Senta, ma c'è spazio quindi in Italia secondo lei per un partito come quello di Tsipras? No, c'è spazio per un partito di sinistra di governo che si allinei col Partito Democratico. Ah. Che non si chiama PD, si chiama in un altro modo. Bella questa. Senta, pensa che il patto del Nazareno sia morto definitivamente? Ma io ho sempre creduto che il patto del Nazareno riguardasse solo la legge elettorale e le norme costituzionali. E credo che da quel punto di vista sia giusto che si sia proseguito anche in quella direzione. Poi non lo so la realtà. Di Renzi cosa le piace di meno? Il coraggio... No, di meno. Cosa le piace di meno? Mi piace che ha poco rispetto anche per le persone che invece sono degne di rispetto. Tipo? Tipo quando a fronte di una magistratura che protesta a ragione o a torto rispetto a certe scelte risponde con delle battute non simpatiche. O al sindacato dice me ne farò una ragione. Cerchiamo prima di capire le ragioni e poi al limite si va avanti per la propria strada. E di più invece cosa le piace? Il coraggio, la forza, la capacità di assimilare subito le necessità del cambiamento. La volontà di cambiare il modo di far politica. Ecco, lei ha parlato del rapporto con i magistrati, ma quello che capita alla procura di Milano fra Brutti Liberati e Robledo non la inquieta dal punto di vista del cittadino? Era inimmaginabile solo fino a un anno fa. Qua purtroppo la responsabilità è del Consiglio Superiore della Magistratura, che doveva prendere delle decisioni ben più precise anziché cercare un punto di mediazione che non era più possibile. Ma era già capitato tutto, però. Era già capitato tutto, ma se fosse intervenuto immediatamente, prima, quando si conoscevano i primi elementi che hanno portato a questa situazione. Senta, è difficile il rapporto col governo? Mi pare di sì. Beh, è abbastanza difficile perché forse il governo ha poca attenzione agli enti locali, senza capire che non solo lì c'è la vita quotidiana dei cittadini, ma c'è anche il consenso. Ecco, però Renzi è un ex sindaco. Si aspettava qualcosa da un ex sindaco? Beh sì, perché quando si cambia ruolo chiaramente si cambia anche modo di guardare la realtà, è una realtà più complessiva, forse però più attenzione non tanto ai sindaci ma alle situazioni locali, ai problemi degli enti locali, pensavo, e tutti i sindaci d'Italia pensavano che li avrebbe dovuti avere. Senta, ma ce le farete con i tagli previsti? Sì. Molto difficile, come città metropolitana ancora più difficile. A novembre avete firmato un piano per liberare 4.000 case popolari occupate illegalmente. Ha funzionato il piano o no? Beh, siamo a buon punto, chiaramente ne abbiamo liberate molte, abbiamo evitato ulteriore occupazione e soprattutto abbiamo messo a disposizione case che non erano vivibili e ristrutturate. È un primo passo, chiaramente c'è ancora molto da fare. Ecco, ma vi siete accorti solo a novembre delle case popolari occupate? No, il problema è che prima le case popolari del Comune di Milano erano gestite dall'ALER, che è un'agenzia della regione. E adesso è vostra, siete voi direttamente. Senta, ma senza il rinvio degli sfratti, a Milano, sindaco, quante persone finiranno su strada? Non posso dirlo esattamente, ma saranno almeno 10-20 mila. Ma e voi cosa farete? Un disastro, se così avverrà. Chiaramente quello che stiamo tentando di fare è di avere più luoghi dove mettere a disposizione le famiglie sfrattate, ma soprattutto stiamo lavorando perché ci sia il minor numero possibile di sfrattati. Senta, ma c'è il rischio, come in Francia, che le nostre periferie diventino serbatoi di terrorismo? Conosco bene Milano, conosco benissimo le periferie di Milano e posso dire che le periferie di Milano sono una ricchezza di cultura, di positività, di associazionismo. Ci sono anche gli elementi critici, ma non saranno mai le bandio. Senta, a proposito di terrorismo, dopo i fatti di Parigi, l'Expo non rischia di essere una calamita speciale per il terrorismo? È chiaro, qualsiasi, è un po' come per la mafia, come diceva Falcone: là dove ci sono i soldi c'è la mafia, là dove c'è chiaramente il mondo intero e tanti rappresentanti che hanno istituzionali di tutto il mondo, il terrorismo guarda con attenzione. Però posso dire che gli anticorpi ci sono, gli argini ci sono. Ecco, il commissario Sala ci ha detto che siamo organizzati per la sicurezza, anzi siete. Lei ha visto l'organizzazione per la sicurezza? No, però ho settimanalmente contatti con persone di altissimo livello che si occupano di sicurezza che la rassicurano. Del resto non voglio neanche saperle, chiaramente devo essere rassicurato e dare indicazioni per quanto posso conoscere io. Senta, ma sta visitando i cantieri? L'ho visitato il 31 dicembre. E che impressione le fanno? Che si sono fatti in questi ultimi mesi passi avanti enormi. Saranno finiti in tempo, forse non tutti i padiglioni, ma gran parte dei padiglioni. Però voglio ricordare che in altre Expo si è partiti quando metà dei padiglioni non erano ancora pronti. Senta, sindaco Pisapia, ai gufi ad oltranza, lei cosa dice? Cercate di guardare positivo. Ma e quali sono i gufi che le danno più fastidio? Quelli che sono sempre per il no. Ogni tanto Viene dall'extraparlamentare e passare al governo cambia la mentalità. Si sa che anche quando facevo opposizione era un'opposizione costruttiva e peraltro spesso vincente. Senta, sindaco Pisapia, ma i bronzi di Riace a Milano lei li avrebbe voluti per l'Expo? No, mi facevano un po' ridere. Non li voleva? No. Ah, è d'accordo con Renzi, vede? Se uno va nel merito è d'accordo con Renzi. O forse Renzi è d'accordo con me. Ah, è lei che l'ha consigliato, va bene. Senta, sindaco Pisapia, il governo ha fatto tutto il possibile per sostenere l'Expo, secondo lei? Diciamo, dal governo Letta in poi sì. Prima forse ci sono state delle carenze. Voi avete chiesto 114 milioni, mi sembra, per la macchina organizzativa. Ve ne arriveranno 60. Cosa tagliate? Beh, questa è una cosa che ritengo inaccettabile e vergognosa, anche perché con la stessa legge con cui sono state destinate a Milano metà delle somme che erano previste e che avevano il consenso del MEF, quindi lira per lira, euro per euro, io credo ancora che ci possa essere un ripensamento del governo, perché quando si arriva vicino alla meta alla fine i bisogni emergono. Ma per esempio la metro 5 sarà pronta? Sì, la metro 5 arriverà fino a San Siro. Cos'è che è a rischio? No, la cosa più a rischio cos'è? Il livello dei trasporti, il livello, nel senso che ci sarà necessità di nuova occupazione, nuove assunzioni, ci sarà necessità, avendo 20 milioni di visitatori e spero anche di non farli andare a piedi, insomma. Di maggiori servizi. È chiaro che qualcuno li deve pagare. Il comune da solo non ce la fa. Lei ha detto: non è pensabile che finita l'Expo finisca l'impegno di Milano sui temi del cibo sano e sicuro, cioè? E cioè che il dibattito sul cibo sano, sulla lotta agli sprechi alimentari, continuerà per quanto riguarda Milano anche dopo Expo. Tant'è vero che stiamo facendo una food policy con tutte le città del mondo, con non voli pindarici, grandi sogni, ma con risposte concrete ai bisogni quotidiani del mangiare, della sana alimentazione e dell'eliminazione degli sprechi. Ecco, Sala, qui a Mix 24, ci ha detto: per fortuna non sarà più un mio problema, però il che fare di quei terreni dopo l'Expo è davvero ancora in alto mare, così? No, stiamo facendo dei passi avanti, ci sono già varie proposte, abbiamo... Però avete già fatto due aste che sono andate deserte. No, abbiamo fatto un'asta, un'asta che è andata deserta, come era prevista e prevedibile. Perché non è un brutto segno. Ma no, un terreno così ampio evidentemente non può trovare attraverso un'asta un investitore. Bisogna fare un progetto e su questo ci stanno aiutando le università. Ecco, infatti, lei è ancora convinto che il parco tecnologico che è proposto dalla Sa Lombarda possa essere una soluzione? Di proposte ce ne sono tante. Ma qual è quella migliore per lei? Ma bisogna fare anche delle scelte. Io credo che una città dell'innovazione, della ricerca, una città universitaria sarebbe una risposta positiva che permetterà anche di proseguire nel dibattito sui temi di Expo. I soldi necessari, 400 milioni più o meno si dice, non so se è vero. Ma sì, per di fare sicuro, qualcosa. Però voglio dire, c'è Confindustria, Sa Lombarda, ci sono le banche, ci sono le istituzioni. Cioè, è fiducioso lei, non ci sarà il problema dei terreni dico dopo. Dico che sarà complicato, però non siamo stati fermi fino ad adesso. Non dobbiamo essere disperati. Senta, Sindaco Pisapia, speriamo però che da maggio in poi non piova. Perché ogni volta che capita più del solito Milano va sott'acqua. Ma com'è possibile? È possibile perché esondazioni che sono frequenti a Milano da oltre 50 anni sono esondazioni a cui non si è cercato di dare una risposta complessiva. È quella che noi abbiamo fatto. Finalmente c'è un progetto, ci sono gli investimenti, ci sono già i bandi fatti per iniziare il lavoro e fare quelle vasche che sono necessarie per evitare le esondazioni. Lei nel suo programma del 2011 aveva promesso un cambio di passo sul Seveso, e questo, mi sembra fondamentale. Forse non ci arriviamo per il 2015, ma dal 2016 esondazioni non ce ne saranno più. Dal 2016 promette Pisapia non ci saranno più esondazioni. Chiaramente se non se non ci saranno ricorsi al TAR, se non ci saranno ditte che falliscono. Ecco. Sì. Per quanto riguarda l'amministrazione avremo messo tutto in ordine per evitare le esondazioni. Senta, Sindaco Pisapia, il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giovanni Canzio, ha detto che la presenza mafiosa al nord non è un'infiltrazione ma un'occupazione vera e propria. Sì, ma anche aggiunto, perché bisogna leggerle tutte le relazioni, che a Milano si sono creati gli anticorpi e che la mafia e la 'ndrangheta sono state debellate. Ecco, sì, debellate, ma il broker della coca, Margello Sgroi, dice che a Milano comanda la 'ndrangheta. Ma forse a casa sua comanda la 'ndrangheta, non sicuramente a casa nostra. Senta, ma lui dice a Milano. Senta, ma è stato un pericolo però negato e poi sottovalutato, questo si può dire. È stato negato per troppo tempo, sottovalutato ancora per anni. Direi che da quando c'è la mia amministrazione è stato uno punti cardine su cui ci siamo impegnati. E dice anticorpi, ma quali sono gli anticorpi più forti che ha messo in campo? Che siamo passati dalle firme di protocolli a controlli continui a tutti i livelli. Abbiamo una commissione antimafia, un comitato antimafia che ci protegge, che non dibattono su questi temi ma cercano e ci aiutano a trovare soluzioni su questi temi fondamentali. Senta, ma qual è la cosa che sente dire di Milano che la fa più arrabbiare? Che è una città inospitale e fredda. Perché? Perché invece è una città che è rimasta accogliente e calda dal punto di vista del cuore, chiaramente. Si è pentito di aver trascritto i matrimoni omosessuali celebrati all'estero? No, assolutamente. Non solo è un dovere giuridico, secondo me, ma anche credo che sia rispetto per delle realtà che bisogna riconoscere, perché sono realtà che sono segnali di amore e io credo che sia bello questo. Lei ha detto che in questo caso il Viminale, cioè Angelino Alfano, è stato blasfemo, cioè? E cioè che... Quella circolare è una bestemmia giuridica. A blasfemo giuridicamente. Sì, giuridicamente, chiaro. Senta, Sindaco Pisapia, ma sa che a Milano c'è chi dice che se non ci sarà una moschea per l'Expo potrebbero esserci dei guai? Ci sarà? Dei guai no, ma sarebbe un segnale estremamente negativo. Sì, estremamente negativo, perché non si dà uno spazio e un luogo di culto a credenti che saranno numerosissimi, che vengono dai paesi dove quella religione è a 5 mesi data. Sì. dove pregheranno. Purtroppo è stata approvata dalla regione una legge che renderà ancora più difficile di come già era il fatto che si arriva a Expo con una moschea, e quindi non ci sarà, per dirla in italiano. Però stiamo cercando di vedere che ci sia in ogni caso un luogo di culto all'interno e all'esterno di Expo. Senta, Sindaco Pisapia, che voto si dà fino ad oggi come sindaco? Beh, i voti li danno gli altri. Sì, lei no, lei è uno che se li dà anche. No, non credo, no. Non mi conosce. No, no, ma dico autocritica, pensavo, dal punto di vista dell'essere severo con se stesso. Io mi ero dato 3 obiettivi in questa consigliatura, in questa legislatura, e credo di averli raggiunti. Chiaramente so perfettamente che ci sono molte criticità. Cioè, i 3 obiettivi? Creare una nuova classe dirigente, e questo credo che ci sia oggi a Milano, giovane, capace, poco ancorata alle ideologie, ma anche di sinistra. Il fatto di dare una risposta a una maggiore internazionalizzazione di Milano, ovunque vado all'estero Milano è diventato un punto di riferimento, e il terzo, dare un grande segnale di cambiamento rispetto alla mobilità e alla congestione. Di sinistra vuol dire dalla parte dei più deboli? Dalla parte dei più deboli, la giustizia sociale, ma anche i temi più importanti, lavoro, lavoro, lavoro. Le piace questo Papa? Non ho capito. Le piace questo Papa? Molto. Sì? Sì. Si sente in sintonia? Beh, posso dire una cosa bellissima. Quando ci siamo incontrati con altri sindaci ha detto una cosa bellissima: io quando la sera vado a casa, e già questo è bello, penso a quello che ho fatto e sono contento, poi penso a quello che avrei voluto fare ma non sono riuscito a fare o non mi hanno fatto fare, e divento triste. E ci ha guardato e ha detto: immagino che anche per voi sindaci sia così. E in effetti è così. Senta, lei ha scritto che le piace di più quando i viaggi cominciano, non quando finiscono. Ecco, adesso come sindaco a che punto ci considera del viaggio, visto che non sappiamo se è a metà strada oppure no? Beh, i viaggi si sa quando iniziano, perché si parte. Quando si raggiunge l'obiettivo non si sa mai. Senta, come uomo cosa le ha dato questa esperienza fino ad oggi? Tantissimo, mi ha dato tantissimo, ho dato tantissimo, perché ho dato tutta la mia vita, tutta la mia giornata, i miei affetti, non vedo più i miei fratelli, i miei amici, però mi ha dato tantissimo a livello di umanità, di capacità di affrontare i problemi concreti di ogni giorno. Cioè, la politica è una grande esperienza. Fatta. La buona politica. Fatta. La politica non per il potere, ma per poter fare, per poter migliorare. Quindi suo padre l'avesse visto all'opera, avrebbe cambiato idea. Questo non lo so. Mi piacerebbe pensarlo. Posso dire che mia mamma non ha cambiato idea, però. Sempre contraria. Senta. No, perché mi vede stanco e dice: ma quando finisce? Io le spiego che ci vuole ancora un po'. Senta, sindaco, a proposito, un'ultima domanda. Quindi, se non si candidasse più, tornerebbe a fare l'avvocato? Non ci ho pensato, ho detto entro l'inizio di Expo ci sarà la mia decisione, e chiaramente deciderò anche il futuro. Sicuramente, se non continuassi a fare sindaco, mi piglierei 3 mesi di vacanza e probabilmente andrei in India. Ah, in India perché? Perché piace così tanto. Non arrivano i giornali, non mi arrabbio, e soprattutto perché l'India è il luogo dove io sono stato più spesso felice. Con me stesso e col mondo. Ci rivediamo qua, perché farà la dichiarazione se accetta o no. Me l'ha promesso. Questo non lo posso assicurare. Ah, si rimangia le promesse, sindaco. Grazie. Grazie a lei. Buon lavoro, grazie. Mix 24. Allora, Mario, il titolo di Pisapia? È la sinistra di Renzi. La sinistra di Renzi? Eh sì, se Renzi lo vuole, ovviamente. E tu, Pietrangelo? Pronto per l'India. Cioè, uno in Africa e l'altro in India? Cazzone. Spensieratamente sbocconcello, e da vicino ammiro la tua mano, e c'è di peggio. Fuori dalla finestra c'è un parcheggio, e nel parcheggio un deltaplano. Ma che bel viaggio, e com'è bello andare alla deriva, c'è l'amore in prospettiva. Allora, Pietrangelo, finalmente qui con noi, è guarito quasi. Vi è mai capitato, Giovanni, Mario, vi è mai capitato di ritrovarvi in tasca delle parole? Sono le parole quelle lasciate in tasca, perché qualcuna è dura. Sono, viene... di più. Vengono poi riservate per i momenti opportuni, qualcun'altra sebbene confusa e intensa, e pesano dentro le tasche, sono proprio bagagli insopportabili, strette tra le mani, poi si ha sempre paura di smarrirle nel pietrisco indistinto del chiacchiericcio, e più passa il tempo e più cresce il loro peso. A volte perdono perfino il suono queste parole, allora è urgente svuotarle le tasche anche con una distanza semplice e complice, con un giro d'armonia, di parole e di suoni, come sei mai stata sulla luna, Francesco De Gregori. Spensieratamente mi arrovello e finalmente chiedo la tua mano. C'è di peggio, fuori dalla finestra c'è un miraggio e un'onda anomala. Mario, oh. Mario, le bolle tue da dove non cominciano? Da dove cominciano oggi? Senti, senti, senti. Questo era uno splendido pezzo di Armstrong, che faceva parte della colonna sonora di un film di 007. We have all the time. Abbiamo veramente tutto il tempo? Non lo so. Anzi, io penso che ce n'è pochissimo, almeno per quanto riguarda l'Ucraina. Allora, Giovanni, vanno tutti da Putin. Hai visto? Angela Merkel e François Hollande in missione diplomatica, a sorpresa, prima a Kiev e poi a Mosca. Cosa significa? Proviamo a fare un po' d'ordine. Ci sono almeno quattro punti, secondo me, che vengono fuori e ne verranno altri. Poi vediamo anche i risultati di queste visite. Però, per ora, intanto, l'asse Parigi-Berlino non è mai morto. Come abbiamo detto tante volte qui, in questa trasmissione, Mix24, è inutile sperare nella Francia, no? Caro Luzzi, certo. Se tu devi fare una cosa, devi fare coi tedeschi, perché sono i tedeschi i tuoi interlocutori. Poi, la missione di Merkel e Hollande, mi dispiace, sì, ma dimostra che Federica Mogherini non conta nulla. Ovviamente non è la sua persona in discussione, è l'istituzione. Cioè, l'Europa è un interlocutore, è altrove, è ancora nelle nazioni, nelle capitali, negli stati, non è una federazione. L'altra cosa è che la distanza tra la politica europea e quella americana è, ragazzi, comincia a essere una cosa grossa, cioè, molto, c'è, molto grande, c'è un fossato, sì, e, che certo, si allarga. Una guerra con la Russia, se Washington decide di fare un'escalation militare su Kiev, beh, diventa possibile, è anche probabile. La Russia sembra voler spingere sull'acceleratore contro l'America. L'America contro la Russia. Sì, sì. Mi sembra che sia così. E c'è una testimonianza dell'ambasciatore tedesco negli Stati Uniti, Peter Wittig, che dice: attenzione, che l'armare l'Ucraina non contribuisce a migliorare la situazione, no, dobbiamo fare altro. Quindi io la segnalo questa cosa. Infine, c'è un dato storico sul quale poi parleremo nelle prossime puntate, facendo esempi, certo, che sono, insomma, la storia è maestra di vita, come sempre. Affamare la Russia non è mai stata una buona idea. E la storia sta là a ricordarlo. Quindi, grande rispetto per gli Stati Uniti, per la sua democrazia, per il fatto che, insomma, sono stati una nazione guida. Ma che ora, però, ha una grande confusione in testa, sì, su come gestire, sì, sì, sì, il mondo, c'è un libro, esatto, c'è un libro di Kissinger che è uscito da poco, The World Order, insomma, io consiglio di leggerlo attentamente, ci sono delle idee che sono leggermente diverse da quelle che è in questo momento Obama. Pietrangelo, eccomi. Ma Tsipras e Varoufakis, mm-hmm, ti piacciono? Sono una famiglia, sì o no? Questi erano chic. Ma sì, sì. Hanno una bella tempra. Poi quell'altro sembra proprio uno della curva nord. Macho. Non lo so. Non però ti sei fatto un'idea precisa. No, me ne sono, allora, fatte. Sono meglio dei piritolli fighetti italiani renziani. Non c'è dubbio. Ecco, vedi che l'ha detta. Vabbè, insomma, io non voglio dilungarmi molto sulla Grecia. Abbiamo parlato tanto, infatti stanno là, come dire, adesso le cose sono rotolate a valle, per cui si vedono. E la Grecia è solo lo specchio del problema, che noi non volevamo vedere, cioè che i debiti, anche i nostri, sono crediti per qualche altro. Quindi, per noi italiani la situazione della Grecia è riassunta in un numero, 43 sono i miliardi di esposizione dell'Italia, Che facciamo? Io lo chiedo ai nostri ascoltatori. Li regaliamo ai prepensionati a 50 anni della Grecia? Ai ferrovieri a 5.000 euro al mese? Ai fannulloni dell'apparato pubblico greco? Alle sanguisughe che hanno distrutto le finanze pubbliche della Grecia alle spalle dell'Europa? Salamini! Marzo, festa della donna, e sarà festa in tutti i sensi, perché Silvio Berlusconi avrà finalmente mani libere. Sarà il gran giorno, sarà quello di Silvio Berlusconi, appunto, finalmente restituito all'agibilità politica, perché l'8 marzo esaurisce la pena accessoria e l'ex premier non dovrà più andare a Cesano Boscone. Ora lui lo troviamo particolarmente in forma, perché il suo potere di negoziazione è così alto, al tal punto che Matteo Renzi, dopo averlo coinvolto con grande entusiasmo nell'elezione di Sergio Mattarella, adesso con l'emendamento 1000 proroghe lo tocca nel vivo, cioè mette mano direttamente alla cosiddetta mobilia, che è l'argomento sensibile. Ma in ogni modo noi aspettiamo questo 8 marzo perché finalmente... mani libere! Mani libere! E a partire da giorno 9 tutto sarà perdonato! E tornerà Nicole Minetti! A partire da giorno 9 tutto sarà perdonato e tornerà Lele Mora! Tornerà anche Emilio Fede! E però... per esempio Emilio Fede ha promesso che giocherà soltanto a tombola. A partire da giorno 9 tutto sarà perdonato e tornerà a Mediaset. Tornerà Michele Santoro. Tornerà anche Ambra Angiolini, invitando a votare ancora una volta per il Cavaliere. Tornerà Achille Occhetto con la gioiosa macchina da guerra. Matteo Renzi si ritira e torna. Torna Gullit, poi torna. Torna Van Basten. Torna. Oh, Arrigo Sacchi non è mai andato via e torna. Beh, si dovrebbe dire tornerebbero, ma sotto forma di statue in tutta Italia, nelle piazze d'Italia ci saranno le statue di Sandra e Raimondo e poi... certo. Il San Raffaele verrà ribattezzato e dedicato alla memoria di Mike Buongiorno. Insomma, tornerà con l'8 marzo mani libere il Cavaliere e quindi l'Italia avrà un nuovo inno. Lo rimpiangeranno il Cavaliere. Tu dici, eh? E certo, sì. Figurati che Renzi che cosa farà? Sì. Un ventennio renziano. Ventennio renziano. Ma già ormai iniziato. Il Renzien regime. Il alla Renzien libreria regime. Feltrinelli troverete già predisposto lo scaffale e i libri scelti da Matteo Renzi. Vabbè, però Berlusconi li pubblicava. Non diverso, è proprio la stessa cosa. V'ho fregato. Questa era. Ed era anche l'editore di Massimo D'Alema. Certo, non so se mi spiego. E di Eugenio Scalfari, tuttora. Non so se mi spiego. Mix 24. Canzoniere. Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Traccio i miei segni nella notte che è solida, contro l'una e l'altra coscia come un'asse inchiodata. Scrivo, rivivo, rimuoio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS per chi vuole indovinare un aiutino piccolo, no? Un aiutino piccolo, bisogna indovinare autore e titolo di questo libro, che è anche una grande pagina, oltre che di poesia, di estetica militare. Bolla! Segnalo la Tardelli che letteralmente scatenate, schizza in alto, decolla. Una canzone di Springsteen, Born to Run. Vi piace, no? Senti un po'. Quando canta è bravo, quando fa discorsi politici è un disastro. Va, dai, pazienza. Senti, siamo nell'era del voyeurismo agonistico. Vi segnalo che GoPro, molti la conoscono, molti no, è un'azienda americana che produce quelle telecamerine che tu, no, usi quando vai a fare a sciare, che ne so, oppure scali una montagna, oppure fai lo sci d'acqua. Com'è difficile, io mi siedo sotto un ombrellone quando capita di andare al mare, cioè mai, quindi... Diciamo che questa aziendina è interessante perché ha prodotto nell'ultimo trimestre 634 milioni di ricavi, che è un record colossale. Per intenderci, una cosa un po' più pratica, 1000 telecamerine vendute ogni ora negli ultimi 3 mesi. È una roba grossa, però... Nonostante i dati, nonostante l'altissima profittabilità, il titolo è crollato del 17%. Perché? Perché si pensa che nel business entrerà Apple e dunque la pista è finita. Quindi si aspetta Apple. No, è solo una cosa. La barriera d'ingresso in questo tipo di settori ad alta tecnologia in realtà è molto bassa. Cioè oggi Facebook è un gigante, arriverà domani un'altra social network e lo sostituisce. Intanto è finita la settimana ed è il momento della posta del cuore. Se volete scriveteci a mix24@radio24.it, ma intanto Sara... Risponde l'ufficio del signor I. Qui ci sono 3 errori di battitura. Mi scusi, mi dispiace. La ribatta. Se ha qualcos'altro da battere, posso tornare più tardi. Venga immediatamente nel mio ufficio. Finalmente. Non si tratta degli errori di battitura, ma del suo comportamento. Cos'ha il mio comportamento? È molto riprovevole. Non possiamo farlo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Perché no? You got to know. Io sono pazzo di lei. Signor Gray, sono la sua segretaria. Vuole davvero essere la mia segretaria? Sì, lo voglio. Allora, ci è arrivata una lettera che ha a che fare con capi, segretari, amori che nascono sul luogo del lavoro. E scrive così. Circa un anno fa ho trovato un lavoro che mi piace, con dei colleghi simpatici e un capo che mi apprezza. Anche troppo. È cominciata per gioco. Una battuta qui, uno sguardo là. Non immaginavo che lui, 20 anni più di me, sposato e con 3 figli, sarebbe andato molto oltre. Siamo finiti a baciarci in ascensore, poi in corridoio, in sala riunioni, in garage, in bagno. Tra la paura e l'emozione di essere scoperti, alla fine è successo. Un paio di giorni dopo, dalla sua scrivania è scomparsa la foto di moglie e figli. Poi è scomparsa proprio la famiglia. È andato via di casa senza avvertirmi. «Mi ama follemente», dice lui. E naturalmente si aspettava i salti di gioia, ma bisogna essere molto sceme o molto arroganti per sentirsi lusingate da uno che molla la famiglia da un giorno all'altro e ti scarica pure addosso la responsabilità. Ora lo vedo con altri occhi e cerco di prendere le distanze. Lui però si incattivisce. Siamo già alle critiche sul mio lavoro e alle battute acide davanti ai colleghi. È un incubo quotidiano, ma io questo posto non lo lascio. Come faccio? Pietrangelo, come si sopravvive al capo innamorato? Intanto questa signora non ha un nome. Non ha un nome. Mirella. Ah, Mirella. Allora, signora Mirella, innanzitutto mi sembra un canone un poco usurato. Vede, è l'effetto collegio. Quando si sta all'interno, rinchiusi nel recinto del lavoro, dell'impiego, allora tutto sembra meraviglioso e bello e si scatena la passione. Motivo per cui sto poveretto, imbecille totale, si è trovato in questa situazione. Non l'ha saputa. Insomma, si vede che proprio è derivata, diciamo, dal ruolo e non dall'amore. Detto ciò, vale la regola che una volta un grande giornalista, un grande direttore, ebbe a spiegare secondo modi precisi. Mai frequentare... Insomma, la metafora è militare. Una volta si incontrarono con un altro collega e dissero: "Hai visti? Hai visto lui? Beh, noi siamo stati commilitoni. Abbiamo militato nello stesso corpo." Il che determina poi un grave errore di metodo nel lavoro, come quando si ritrovarono tutte e due, perdonate l'incursione nella memoria storica, siamo negli anni 50, si ritrovarono tutte e due nella stessa casa d'appuntamenti ed ebbero a che fare con il più grande degli equivoci, il termine dei paragone. Pietrangelo, ma sai che anche le statistiche danno ragione a te, alla nostra scrittrice di lettere, perché il 70% delle persone sperimenta almeno una volta nella vita una relazione con un collega sul lavoro, e il 60% delle infedeltà coniugali accade proprio sempre al lavoro, in questo recinto, come lo chiami tu. Nello specifico, gli italiani hanno la medaglia d'oro europea per i tradimenti in ufficio. Ve lo sareste immaginati? Sì, no, oggi, no, però... no. Oggi subito dopo il giornale radio chiudiamo l'ultima delle tre puntate sulla storia siciliana. È la storia di Salvatore Giuliano, il bandito autore della strage di Portella della Ginestra, raccontati anche da Francesco Rosi nel suo film Salvatore Giuliano. Sentiamo Gaspare Pisciotte e Emanuele Macaluso. Gaspare Pisciotte, vi rendete conto di quello che state dicendo? Ho detto di aver agito in collaborazione con il colonnello dei carabinieri e prima ancora con la polizia, che mi rilascia una tessera di libera circolazione. Indi a Roma con le loro cariche, mentre a noi ci hanno ammanettato e scaricato in galera. L'uso che la mafia fece anche del banditismo e l'intreccio con la politica e l'intreccio con gli apparati era, diciamo così, la metafora di una storia. L'inchiesta di Antonello Savoca, appunto, che andrà in onda dopo il giornale radio, e a cura ed è raccontata come sempre da Marina Milone. Prima della pubblicità, ci vediamo a casa di Dolce Nera.